ad alta voce. Edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. Prima puntata. Se colui che dopo fu riconosciuto come il male non era all'origine considerato tale, ma tutt'altro, era baciato e accarezzato e gli si fissavano in volto allegri sguardi azzurri e tutto cantava intorno a lui un canto di amicizia e soavità, se colui improvvisamente seppe che vi era stato errore, seppe di essere non il bene ma il male medesimo, la vergogna, la malvagità, e spinto in un corridoio di solitudine non vide in fondo al cammino che la forca. Sappi, lettore, che solo costui che dapprima non era considerato il male e dopo fu indicato come il male medesimo, solo costui sa cos'è il freddo mortale del male. Anna Maria Ortese, Liguana, Milano 1986. Il sogno. Questa è una storia che fa paura. A me ha sempre fatto paura, fin dal primo sogno. Molte storie sono nate da sogni, verrebbe da pensare che lo siano tutte, ma questa no. Il sogno era una cosa e la storia un'altra. In mezzo ci sono stati anni, ricerche, titubanze. Il sogno ha spinto verso la storia, ma della storia non sapeva nulla. Non so nemmeno se c'entrasse il sogno con la storia. È stato un calcio di paura e su questa paura l'assillo di trovarle una ragione, come se ci volesse una ragione per avere paura. Questo era il sogno. Attraverso la sala d'attesa di una stazione di Londra. La luce è grigia, come le schiene degli uomini che leggono seduti il loro giornale. Passando dietro di loro, leggo da sopra una spalla la data del giornale. Grido di spavento. È il 1733. Vivevo a Londra ed era il 1975. Visitavo ogni giorno un'analista kleiniana e con lei cercai la spiegazione del sogno. Il sogno non mi usciva di testa. Pensavo che dovesse avere per forza un senso, richiamare qualcosa o annunciare qualcosa. Ci sono sogni così e anche eventi così che sembrano annunciazioni, infilano una spina nel costato, non danno pace finché non hai trovato il senso. Ma per quanti sforzi facessi, quel sogno non si spiegava. Cruciale mi sembrava la cifra. 1733, o 1733, o rovesciato, 1377. Sentivo che aveva a che fare col tempo, con quella forma spaventata del tempo che si chiama troppo tardi. Ma comunque rigirassi la data, non ne usciva nulla. Piano piano me lo dimenticai. Il 3 giugno 1983 feci un altro sogno. Vengo condotta alla mia esecuzione. In viaggio sulla carretta, insieme a due persone leggo tranquillamente. Le due persone mi osservano, ma quando mancano 10 minuti sono colta da un panico terribile, fulminante. Una delle due persone allora tira fuori la mia carta d'identità. Ma quel che tira fuori è una fotografia di me bambina. L'altro ride. Con quella, dice, non potrà certo fare granché. Questo sbaglio mi salva. L'esecuzione è sospesa. Ho trascritto il sogno su un quaderno e poi l'ho dimenticato. L'ho ritrovato per caso, rileggendo i miei quaderni dopo che mi ero già imbattuta nella storia che sto per raccontare. E viene il 1995. Sono passati 20 anni dal primo sogno. Giro per le strade di Venezia ed ecco che il sogno riaffiora. Guardando i numeri delle case veneziane, che sono di 4 cifre, penso che una di quelle porte potrebbe essere il 1733. Andai di sestiere in sestiere in cerca della casa che portava quel numero. Dei 6 sestieri ne girai 3, ma la porta non c'era. C'era il numero 1731 o 1732 e il numero 1734 o 1735. Ma il 1733 non aveva porta. O era stata murata, o era diventata una finestra, o dietro di lei, invece di una casa, c'era una strada. Qua e là una donna si affacciava alla finestra e discorreva stupita di questa mancanza cui non aveva mai fatto caso. Anni dopo, quando ormai le porte non mi dicevano più nulla, nel 4° sestiere, sotto un buio cunicolo ad arco, l'ho trovata. Così mi dissi: perché cercare? Se è uno spavento, mi raggiungerà. Una mattina, un'amica che scendeva con me la strada di una città familiare mi disse: non è quello il numero che cerchi? Ormai lo andavo raccontando, sperando che qualcuno mi desse una pista, e alzando gli occhi lo vidi, sopra un portone, costeggiato 1000 volte accanto al numero civico, c'era e c'è ancora un vecchio numero, forse una data, 1733. Mentre rallentavo il passo per osservare la cifra scolpita nel muro, una donna dagli occhi malvagi vi sgusciò dentro e ne uscì dopo poco con passo guardingo. Da allora quella donna ha dedicato la sua vita a perseguitarmi. E io mi sono spesso chiesta se non fosse anche lei un motore della storia. Ancora una volta pensai che quel numero non mi voleva bene. Ora avrei voluto dimenticarlo, ma non mi riusciva più. Qualche mese dopo ero a Londra, nella vecchia biblioteca dalla sala rotonda che ormai non contiene più libri né lettori. E fu lì, in quella sala alta, solenne e accogliente come il passato, che posi mente a un particolare a cui non avevo dato importanza: il giornale. Presi dagli scaffali il volume rilegato del London Magazine, vecchio settimanale di cronaca, cercai l'annata 1733 e cominciai a scorrerlo. Ero convinta che il sogno mi riguardasse e che quella data avesse a che fare con me, perciò cercai subito il giorno e il mese della mia nascita e nella rubrica mensile trovai questo fatto di cronaca. Immediatamente dopo il servizio della sera, un certo William Williams, che usciva dalla parrocchia di Abergele, nella contea di Denbigh, fu inseguito da lì fino alla casa del pastore da un certo Lloyd, figlio di un gentiluomo dei dintorni che con la spada sguainata trafisse e uccise il suddetto Williams. Ed essendo fuggito senza lasciare tracce, una ricompensa è stata offerta a chi lo catturerà. Il doppio nome dell'ucciso, che mi ricordava un racconto di Poe, la coincidenza della data e il mistero dell'uccisione mi trattennero per un momento. Ma l'indomani ero di nuovo a caccia. Mi ricordai che l'anno del sogno avevo vissuto a Londra fino al mese di giugno e dunque il sogno era stato sognato nella prima metà dell'anno. Nella stessa sezione del London Magazine, The Gentleman's Monthly Intelligencer, in uno dei primi mesi una notizia mi abbagliò. Capii che avevo trovato la storia che mi cercava. Mercoledì 7 marzo 1733, verso le 10 del mattino, Sarah Malcolm è stata prelevata dalla prigione di Newgate e portata sulla carretta giù per l'Old Bailey, su per Fleet Street, fino alla piazza di fronte a Mitre Court, dove era stato eretto il capestro. Era vestita di nero, con il grembiule bianco della sua condizione, cuffia in ermisino e guanti neri. Accanto a lei si tenevano il reverendo Middleton di St. Bride, insieme al cappellano della prigione, e il reverendo Piddington di San Bartolomeo, con i quali parlava devotamente. Girandosi verso il popolo radunato in attesa, disse che aveva consegnato ai 3 prelati un resoconto genuino dei fatti e la sua piena confessione in 3 pagine, chiusa e sigillata la notte precedente e che sperava che Mr. Piddington la pubblicasse. Cercava con gli occhi qualcuno e poi confessò che sperava di vedere nella folla il suo padrone, Mr. Carroll, perché voleva discolparlo da ogni accusa o calunnia che gli fosse ricaduta addosso durante il processo. Ma dei suoi delitti non disse nulla. Dopo aver parlato ancora con i pastori, al momento di essere giustiziata svenne e ci volle un po' per farla rinvenire. Ma quando si fu ripresa, dopo una breve sospensione, fu giustiziata. Fu così che feci la conoscenza di Sarah Malcolm. Sarah Malcolm. Quello che ho saputo di lei è il frutto di anni di ricerche. Non è abbastanza. Serve a ristabilire alcuni fatti, ma non basta a chiarire il mistero. Ho girato per anni intorno a quel mistero, come ho girato per anni intorno al sogno che lo ha evocato. Ho cercato di stabilire un contatto con lei, di farmi dire quello che non scoprivo da sola. Ma Sarah Malcolm si è rivelata un fantasma sfuggente, caparbio, opaco. E tuttavia ostinato, non molla l'osso, e l'osso sono io. Mi domando perché. Qualcuno alla fine di questa storia potrà pensare che io non cercavo lei e lei non cercava me, come due sconosciuti nel treno che credono di riconoscersi e si sbagliano entrambi. Ma dal malinteso nasce una conversazione, e questa conversazione cambia la loro vita. Il 7 marzo 1733, giorno in cui fu giustiziata, Sarah Malcolm, di tutte le versioni del suo nome ho scelto la più conosciuta, preferendola al modo in cui lei stessa lo scrive, Malcolm, e a quello più usato all'epoca, Malcolm. Ho fatto lo stesso per tutti gli altri nomi. Aveva 22 anni. Era nata nel 1710 o 1711, alla fine di maggio, nella contea di Durham, dove i genitori avevano una piccola proprietà che a suo dire fruttava 100 sterline l'anno. La madre era irlandese, il padre inglese. Il padre era un uomo debole, più capace di perdere che di guadagnare. Giocando, sperperando, speculando male, finì per ipotecare e vendere la proprietà, costringendo la famiglia a emigrare. Fu la madre allora che prese la situazione in mano e portò i suoi familiari in Irlanda. A Dublino, forse con l'aiuto della famiglia di lei, riuscirono a comprare un pubblico esercizio che permise loro di vivere discretamente e di dare alla figlia una buona educazione. Dicono le fonti che Sara era sveglia, aveva uno spirito vivace ed era molto amata. La memoria che più tardi scrisse in carcere rivela un uso della lingua corretto, leggermente prolisso, leggermente pomposo, una tendenza allo stile elevato, a una certa retorica che fanno pensare a un umiliato gusto per gli studi, a un'ambizione sospesa. Quando la ragazza diventa donna, un nuovo viaggio sopraggiunge a cambiare le cose. Il padre ha degli affari da sbrigare a Londra e si porta dietro la famiglia. Sara è giovane, avida, ignara, e Londra deve sembrarle una città alla sua misura. Ma quale Londra? I Malcolm sono gestori di pub, vengono dall'Irlanda, ed è con questa popolazione che Sara mostrerà più tardi di avere dimestichezza. Si aggirerà nei dintorni del tribunale fra i pub tenuti da irlandesi. Imparerà a muoversi in questo mare, familiare e losco, come un pesce anfibio che ogni tanto tira fuori la testa a respirare. Quando la famiglia torna a Dublino, lei non li segue. Qui le fonti tentennano. È in questo periodo, un po' prima, un po' dopo, che succede il secondo grande evento della sua vita, quello da cui forse tutto dipende. Muore la madre. Sara sembra affezionata alla madre, la figura più salda della famiglia. Il padre si risposa. Sara litiga con la matrigna. Il padre, con la nuova moglie, dovette ricominciare le sue incaute speculazioni perché presto fu di nuovo in miseria. Tutti questi eventi stringono un nodo decisivo. Sara torna o rimane a Londra da sola e cerca un lavoro. È giovane, è decisa, è intrepida, è presuntuosa. L'ambiente a cui si rivolge è quello irlandese. Il quartiere in cui si aggira è il Temple e i suoi dintorni.